Radio 3 Lezioni di musica. Giacomo Fronzi. Trois gymnopédies di Erik Satie. Buongiorno e bentrovati da Giacomo Fronzi. La lezione di musica di oggi è dedicata a un trittico di brevi opere pianistiche tra le più note ed eseguite. Le Trois gymnopédies di Erik Satie, delle quali probabilmente la prima è quella meglio conosciuta dal grande pubblico ed è quella sulla quale ci soffermeremo di più. Erik Satie compone questi tre pezzi d'atmosfera sonora alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, più esattamente nel 1888, quando quindi Satie aveva circa 22 anni. E tanto Debussy rimase impressionato dal carattere di questi lavori che decise di orchestrare, come è ben noto, il primo e il terzo. 1888, quindi si tratta di opere giovanili, e questo non è secondario se pensiamo al fatto che le gimnopedie sono state scoperte soltanto nel 1911, anno in cui di fatto inizia la fortuna critica di Satie. Il suo nome, fino a quel momento, soprattutto alla fine del secolo, era ben noto solo in alcuni cenacoli musical-letterari. Pensiamo a quello rosacrociano e wagneriano di Josephine Peladan, in ambienti decisamente ai margini del mondo musicale accademico, come il celebre Chat Noir, il locale che animava le notti di Montmartre. Le peculiari e bizzarre vicende, sia esistenziali che artistiche, che hanno segnato il percorso di Satie, hanno prodotto nel tempo giudizi spesso divergenti. Retorica, leggenda, livori, incomprensioni, indifferenza si sono alternati a più o meno autentiche apologie o anche talvolta a interpretazioni decisamente parziali e poco obiettive. La prima opera di Satie è datata 1884 e si tratta di un brano pianistico, l'Allegro in Sol maggiore. Si tratta di un brano con una struttura ancora piuttosto elementare, senza uno sviluppo, e questo sarà un carattere distintivo anche di altre opere successive, e un'architettura armonica semplice e ancora scolastica. Da quella prima opera alla fortuna critica del compositore passeranno ben 27 anni. Quando infatti nel 1911 Ravel lo chiamerà a partecipare alla serata della neonata Société de musique indépendante, Satie verrà salutato come il precursore della nuova musica francese, attraverso però la proposizione di opere vecchie di oltre 20 anni. Esplode così il caso Satie: esecuzioni pubbliche, recensioni e articoli critici sulla sua musica, pubblicazioni di diversi lavori rimasti fino ad allora inediti e così via. Satie finalmente riceve il tributo che gli spettava. Se non che questo tributo appariva ai suoi occhi, ma di fatto lo era, non solo tardivo, ma addirittura fuori luogo rispetto ai suoi nuovi interessi. Satie si sentiva ormai lontano dalle opere che tanto affascinavano in quel periodo Ravel o Fauré. Lavori come Le Ogive o Le Sarabande o le notissime Trois gymnopédies, tutti pezzi per pianoforte, rispondevano ad esigenze che, per quanto erano vive nel Satie tra gli anni 80 e 90, pertanto erano ormai passate in secondo piano negli anni in cui la sua musica veniva scoperta. Veniamo così alle gymnopédies. Abbiamo detto che si tratta di tre brevi brani. Il loro titolo, partiamo dal titolo. Gymnopédies deriva dal greco, gymnopaidia. E cos'erano? Si trattava di antiche feste greche in onore di Apollo che venivano celebrate a Sparta. E queste antiche feste prevedevano due cori, uno composto da giovani e l'altro da uomini adulti, che danzavano nudi, gymnoi appunto in greco, e inneggiavano muovendosi intorno alle statue di Apollo e di Artemide. E queste feste venivano organizzate per commemorare la battaglia di Tirea, battaglia nella quale Sparta sconfisse Argo. Era l'anno 545 a.C. Questi tre pezzi, progressivamente più brevi, con il primo siamo a 79 battute, 65 per il secondo e 60 per il terzo, questi tre pezzi, come vedremo, mostrano delle differenze minime nella struttura, così come anche nel carattere. Ascoltiamo infatti le prime battute delle tre gimnopedie. Questa era la prima. La seconda. E la terza. Ecco, come si può notare, tutte e tre presentano, e lo rivedremo, un'introduzione di quattro battute. In esse il ritmo è sempre uguale, così come uguale è il tempo, la scelta timbrica, l'incedere lento, per quanto Satie abbia specificato questa lentezza, aggiungendo un aggettivo diverso per ciascuna gimnopedia. Lento e doloroso per la prima, lento e triste per la seconda, lento e grave per la terza. Si tratta quindi di danze lente che, come avete già potuto sentire, evocano atmosfere antiche, atmosfere arcaiche. E a questo proposito, secondo alcuni critici, al di là del titolo, non ci sarebbe alcun nesso tra le gimnopedie e la Grecia classica. E l'incedere ritmico delle gimnopedie ricorderebbe invece certe forme di musica popolare medievale. Sta di fatto che Satie sceglie questo titolo. Perché dunque? Bene, Satie nel periodo mistico e simbolista cosiddetto, si tratta del primo periodo, il primo dei tre periodi nei quali viene abitualmente suddivisa la produzione di Satie, il primo periodo che va dal 1885 al 95, ecco, in questo periodo Satie tende verso l'autonomizzazione della dissonanza, alla quale Satie cerca di giungere sia elaborando una concezione verticale accordale della melodia, sia prediligendo ritmi, melodie e cadenze di sapore modale, quindi di gusto arcaico, utilizzando serie di accordi di settima senza risoluzione. Una novità. Satie sembra volersi allontanare sempre di più dal linguaggio armonico e sintattico tradizionale, guardando apparentemente in modo paradossale, in questo suo movimento verso il futuro, guardando al passato, guardando lontano sia nel tempo che nello spazio. Ed è in questo contesto che il compositore francese manifesta una chiara e forte attrazione nei confronti del mondo greco, delle civiltà minoiche e cretesi, di Cnosso, ma anche della musica popolare rumena. Ma ripartiamo dalla prima gimnopedia. Abbiamo già ascoltato che il brano inizia con una introduzione di quattro battute . Si coglie subito l'effetto ipnotico di questa musica, un effetto ipnotico che è legato a un senso di staticità che Satie riesce a creare utilizzando le triadi, queste triadi e accordi di settima, sulle quali Satie poi disegna una linea melodica molto semplice. Dopodiché Satie ripete questo primo episodio ma attraverso una cadenza e questo accordo sentile di Mi minore. Satie ci porta in un'altra zona sonora. Eravamo in una zona sonora con due diesis in chiave, per intenderci il fa e il do diesis. Adesso, attraverso questa cadenza, Satie ci porta in uno spazio sonoro diverso, in la minore. qui, ricorrendo nuovamente a un accordo di Mi minore, Satie ci riporta nella zona sonora di partenza, quella con i diesis, per intenderci. La prima sezione si conclude con questo accordo di Re maggiore. Dopodiché viene ripetuta nella quella che possiamo definire una seconda sezione, che è quasi identica alla prima, viene ripetuto l'introduzione, e viene riproposto anche il disegno melodico iniziale. Tutto rimane apparentemente inalterato fino alla parte finale della ripetizione di questo secondo episodio. Ecco, mentre nella prima esposizione, dobbiamo anche notare che qui le due sezioni valgono un po' come esposizione e ripresa, senza uno sviluppo intermedio che colleghi l'una all'altra. Ecco, nella prima esposizione, nel secondo episodio, ascoltavamo questo. Mi minore, e poi abbiamo detto che Satie ci riportava nella zona sonora iniziale, mentre verso la fine della gimnopedia, quindi nella parte finale della seconda sezione, arrivati a questo punto, Satie non ci riporta qui, ma attraverso questo fa naturale ci lascia nello spazio sonoro, nel secondo spazio sonoro. Dove rimaniamo fino alla fine. Con questo accordo finale di Re minore, con il quale appunto si conclude la prima gimnopedia. Veniamo alla seconda gimnopedia. Abbiamo già visto che anche questo brano, anche la seconda gimnopedia, presenta un'introduzione di 4 battute, ancora una volta costruite sul Sol e sul Re. Questa volta naturalmente gli accordi però sono diversi. Dopo 4 battute viene introdotta una linea melodica che questa volta inizia con una nota lunga. Il disegno melodico viene riproposto subito con una leggera variazione alla fine. Possiamo notare che Satie sembra voler evitare in qualche modo quel senso di staticità che comunque caratterizza i 3 brani, ma che, portato all'eccesso, all'esasperazione, perderebbe naturalmente di effetto. Per questo motivo Satie privilegia di più la modulazione e la variazione. E lo stesso atteggiamento avrà anche con la terza gimnopedia. Se la prima gimnopedia era costituita sostanzialmente, abbiamo visto, da 2 sezioni quasi identiche, la seconda gimnopedia la possiamo dividere in 3 blocchi. Il primo blocco è l'introduzione che abbiamo ascoltato, il secondo blocco è la linea melodica, questo disegno melodico. Dopo il quale abbiamo 2 battute, un frammento di 2 battute che richiama l'introduzione e che collega questo secondo blocco al terzo blocco. Siamo ancora nel terzo blocco. Dopo questo terzo blocco, ancora una volta, Satie inserisce un frammento di 2 battute che richiama nuovamente l'introduzione. Dopodiché propone una prima ripetizione del terzo blocco. Ricordiamo che il terzo blocco era questo. Questa volta una prima ripetizione decisamente più variata. questo senso di sospensione, Satie introduce un altro frammento, ancora una volta di due battute, che anticipa la ripetizione, ancora una volta variata, del secondo blocco, quel disegno melodico che abbiamo ascoltato all'inizio. Ricordiamo che il disegno melodico aveva questo andamento all'inizio della gimnopedia. Questa volta Satie lo espone in quest'altro modo. Lo ripete. Con la leggera variazione nel finale. Ancora un frammento di due battute che ricorda l'introduzione. E la seconda ripetizione variata nella seconda metà del terzo blocco. Sentite, apparentemente è identico alla prima esposizione, ma qui varia. E con quattro battute conclusive, un accordo di Do maggiore, si chiude la seconda gimnopedia. Arriviamo così alla terza e ultima gimnopedia. Anche quest'ultimo brano dimostra come Satie sia riuscito a venire fuori dal sistema tonale, dilatandolo ed evitando i centri tonali. È chiara, è chiarissima l'intenzione di creare contesti armonici ambigui, come abbiamo visto attraverso soprattutto l'utilizzo di triadi e di accordi di settima. E la terza gimnopedia, come le due precedenti, si apre con una introduzione di quattro battute con accordi che si alternano. Questa volta non sono più costruiti sul Sol e sul Re, ma sul La e sul Re. Parte il disegno melodico ancora una volta la quinta battuta. Il disegno melodico ora sembra infittirsi, seppur di poco, dando un'idea di una certa continuità. E come dicevamo in apertura, in parte con la seconda gimnopedia e soprattutto con la terza, Satie sembra voler appunto dilatare il disegno melodico e renderlo un po' più fitto. Questo primo episodio infatti non è concluso. È decisamente più lungo rispetto alle gimnopedie precedenti. Qui si chiude la prima sezione, la prima delle due sezioni nelle quali possiamo suddividere la terza gimnopedia. Prima sezione che contiene appunto i due episodi, quello più lungo e questo ultimo che abbiamo appena ascoltato. Dopo questa prima sezione, mentre nella seconda gimnopedia spesso Satie per congiungere i blocchi utilizzava dei frammenti di due battute che ricordavano l'introduzione, nella terza gimnopedia invece Satie utilizza un frammento di tre battute. Dopodiché parte la ripetizione della prima sezione. Risentiamo il primo episodio riproposto, apparentemente uguale. In realtà in questo punto Satie lo dilata e vi inserisce un altro frammento di due battute prima di far riprendere l'episodio. Secondo episodio della prima sezione. Riproposto, identico. Seguono quattro battute, o meglio, un frammento di tre battute e un lungo accordo finale in La minore. Le gimnopedie, come avete potuto ascoltare in questa loro cristallina chiarezza, sono pagine profondamente intrise di mistero, di fascino. Sono scritte sì in modo conciso, ma anche grazie a questa concisione Satie riesce a creare un'atmosfera sonora alla quale, come abbiamo detto, Debussy, Ravel, Fauré non potevano restare insensibili, così come non sono rimasti insensibili anche diversi compositori del Novecento, un nome fra tutti, John Cage, il quale una volta ha dichiarato di essersi avvicinato all'autore francese come a un rito evangelico. Ovviamente non possiamo ridurre a questo giudizio né Satie né l'interpretazione keigiana di Satie. È pur vero che con la produzione di Satie, al di là quindi delle tre gimnopedie che abbiamo analizzato quest'oggi e per il cui ascolto integrale rinvio al sito di Radio 3, dicevo, con la produzione di Satie è stato abbattuto un muro, o probabilmente anche più d'uno. La sua può essere infatti considerata un'accesa e inconclusa battaglia, probabilmente solitaria, sicuramente indipendente ed eclettica, contro una battaglia contro l'asfittico mondo della critica, contro una società alienata, una società ridicola, una società che aveva perso il senso di umanità e che si avviava verso la catastrofe. Ma ciononostante, la produzione di Satie costituisce anche il tentativo di affermazione di una poetica nuova, elettivamente votata al dialogo, alla rinascita culturale, non solo di un popolo, ma probabilmente di un'intera epoca. Un saluto da Giacomo Fronzi. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le Trois Gymnopédies di Erik Satie dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.